solo un istante, un momento ancora. Fermati al mio fianco ad osservare in questo giorno troppe regole da seguire, attenti a non sbagliare, attenti a chi ci passa avanti. Fermati un istante, fermati un istante, fermati a sentire. Aspettative che dall'esterno ci riempiono la mente di nuove, di più grandi voglie, di immagini distinte a stento tra mille che ci stanno intorno. Chi è il primo ad arrivare in fondo? Fermati un istante, un istante. Fermati un istante, un istante. Fermati un istante, un istante. Fermati un istante. Fermati a sentire.